Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Voi sapete che Gesù, quando apparve agli undici, dopo essere risuscitato dai morti, disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Queste sono parole che Gesù rivolse agli undici apostoli. Ci sono delle altre parole che gli disse, ma voglio concentrarmi sulla predicazione dell'Evangelo. Questa mia confutazione ha infatti come oggetto la predicazione dell'Evangelo. Perché? Perché ci sono degli scellerati che sostengono che l'Evangelo non è sempre potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. In sostanza dicono questo, che se l'Evangelo viene annunziato da persone che camminano secondo i desideri della carne, per cui se camminano nell'invidia, nella contenzione e in altre, opere della carne, l'Evangelo cessa di essere potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Cioè, in sostanza, non è più efficace la predicazione dell'Evangelo. Cioè, l'Evangelo in se stesso non ha più quella potenza che ha, per cui diventa una predicazione inutile. Non solo, ci sono sempre appunto altri scellerati che dicono che se l'Evangelo, o meglio la predicazione dell'Evangelo, non è accompagnata da segni e prodigi, quindi opere potenti, quindi miracoli e guarigioni, anche in questa circostanza l'Evangelo non è più potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Quindi, secondo costoro, l'Evangelo per essere efficace o per essere potenza di Dio per la salvezza di ogni credente deve essere annunziato da persone che sostanzialmente non peccano mai. E deve essere sempre accompagnato da miracoli e guarigione. Ora, sembrerà incredibile che ci possano essere persone che si definiscono cristiani e che sostengono queste cose, ma tant'è, queste cose vengono sostenute da uomini scellerati che torcono le scritture a loro propria perdizione, che non hanno alcun discernimento in quanto camminano nelle tenebre, le tenebre gli hanno accecato gli occhi e quindi non capiscono nulla, come dice la scrittura, non capiscono nulla. E sapete, quando ci si trova davanti a uomini di questa specie, credetemi, dopo una prima e una seconda ammonizione bisogna schivarli, perché sono uomini settari, uomini malvagi, sono uomini che prendono piacere nel contrastare la verità. Vi ricordate gli Annei e Ambrei che contrastarono Mosè? Ebbene, costoro amano contrastare la verità. C'è chi ama proclamare la verità, difendere la verità, ma c'è anche chi ama contrastare la verità. E badate bene che, come vi ho detto spesso, i più pericolosi sono coloro che si definiscono cristiani, evangelici, pentecostali, fondamentalisti e così via. Sono i più pericolosi perché, appunto, operano in maniera malvagia in seno alla Chiesa. Però poi chiaramente il Signore li svergogna, li smaschera a suo tempo, però è bene che io vi metta in guardia da costoro. Dunque Gesù ordinò agli undici di andare per tutto il mondo e predicare l'Evangelo ad ogni creatura. Ora, in che cosa consiste il messaggio dell'Evangelo? Voi lo sapete. Avete conoscenza in merito, ma ve lo ricordo, benché sappiate cos'è l'Evangelo, io ve lo ricordo. Non fa mai male ricordare ai santi qual è l'Evangelo di Dio. E per farlo citerò l'Apostolo Paolo, alcune parole dell'Apostolo Paolo tratte dalla sua prima epistola ai santi di Corinto, precisamente sono versetti, i versetti che vanno dall'1 all'11 del capitolo 15. Fratelli, Paolo che parla, fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato. A meno che non abbiate creduto in vano, poiché io ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Dunque, in queste parole è presente l'Evangelo, cioè la buona novella. La buona novella che l'Apostolo Paolo aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Lui l'Evangelo non lo ricevette, non lo imparò da alcun uomo, ma lo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo. Questo ricordiamocelo sempre. E questo Evangelo lui lo trasmetteva per volontà di Dio. Tenete presente che lui era apostolo, tenete presente anche che lui era dottore, aveva ricevuto questi due doni di ministero da Dio. Sono doni, quindi non si meritano, non si guadagnano, non è che si guadagnano offrendo dei soldi al Signore, facendo dei sacrifici o delle rinunzie, o facendo molte preghiere, facendo molti digiuni o molte elemosine. Assolutamente, i doni di ministero, come qualsiasi dono che procede da Dio, ricevono per grazia, altrimenti non sarebbero più doni, non si potrebbero chiamare doni, si ricevono per grazia secondo la volontà di Dio. Fu volontà di Dio dare a Paolo da Tarso questi due ministeri che lui naturalmente, in obbedienza a Dio, mise al servizio dei santi. E dunque questo era l'Evangelo che Paolo annunziava sia ai giudei che ai gentili. Ora Paolo fu costituito dal Signore apostolo e dottore dei gentili, quindi il suo, diciamo, coloro ai quali lui, diciamo, fu mandato dal Signore, furono i gentili. Però io vi ricordo che lui naturalmente predicò l'Evangelo anche ai giudei, eh? E tramite la predicazione dell'Apostolo Paolo vennero alla fede, si convertirono sia molti giudei che anche molti gentili. Ora, questo è l'Evangelo dunque. Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, fu seppellito, risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture, apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, poi apparve a Giacomo, qui naturalmente Giacomo è il fratello del Signore, e poi tutti gli apostoli, e ultimo di tutto poi apparve anche a Saulo da Tarso. Vi ricordate infatti che il Signore gli apparve mentre lui si recava a Damasco, diciamo, indignato, furente contro coloro che invocavano il nome del Signore Gesù, per, diciamo, trovarne di quelli che appunto invocavano il Signore Gesù e portarli incatenati, arrestarli e portarli incatenati a Gerusalemme. Ma mentre appunto si recava a Damasco, il Signore Gesù, il giusto, gli apparve e lo convertì. Ebbene, questo è l'Evangelo. Naturalmente non veniva annunziato solamente da Paolo l'Evangelo, ma veniva annunziato anche da Timoteo, da Sila, Epafrodito, insomma, i suoi collaboratori, nonché anche, per esempio, dall'apostolo Pietro, che era stato costituito apostolo della circoncisione, quindi apostolo dei giudei, e naturalmente anche dagli altri apostoli. Quindi è bene, diciamo, sapere innanzitutto che questo è l'Evangelo che va predicato per tutto il mondo ad ogni creatura. Dunque l'Evangelo, ve lo ricordo per l'ennesima volta, non è Gesù vi ama, non è il Signore ha un piano per la tua vita, non è il Signore la risposta a tutti i tuoi problemi, non è il Signore vuole prendersi cura di te e della tua famiglia, non è il Signore ti vuole provvedere un lavoro, una moglie o un marito, una casa, o vuole darti dei figli. Non è questo l'Evangelo. Dico questo perché oramai con il termine Evangelo viene diffuso, diciamo, qualsiasi messaggio. Ogni sorta di messaggio viene diffuso, ma non viene menzionato, non viene nella maggior parte dei casi predicato l'Evangelo. Molti dicono che predicano l'Evangelo, poi tu vai a verificare che cosa predicano e predicano tutto tranne l'Evangelo. Com'è possibile? Effettivamente pare che ci siano ordini di scuderia nelle denominazioni evangeliche, perché l'Evangelo non viene predicato. Sembrerà incredibile, ma è così. Come mai l'Evangelo non viene predicato? Come mai non viene proclamato con assoluta certezza e franchezza, eh? Lo stesso Vangelo che predicava l'Apostolo Paolo, come mai non viene detto chi non avrà creduto sarà condannato? Si sente dire chi avrà creduto e sarà stato battezzato e sarà salvato. Però non si sente pressoché mai dire chi non avrà creduto sarà condannato. Come mai? Evidentemente, perché queste parole danno fastidio alla massoneria, che ha in mano tutte le denominazioni evangeliche. La massoneria, infatti, non sopporta sentire dire che coloro che non credono nella buona novella che Gesù è il Cristo saranno condannati. Perché? Perché per la massoneria tutti gli uomini sono figli di Dio, tutti gli uomini saranno salvati, a prescindere il loro credo, quindi a prescindere che uno creda o non creda nell'Evangelo, per la massoneria tutti saranno salvati. E quindi sentir dire che i musulmani saranno condannati, i buddisti saranno condannati, gli ebrei, i disubbidienti, saranno condannati, gli shintoisti saranno condannati, gli animisti saranno condannati, i massoni saranno condannati, gli spiritisti saranno condannati, i satanisti saranno condannati, gli induisti, insomma, è chiaro che la massoneria non sopporta questo messaggio esclusivista che è appunto l'Evangelo, perché la massoneria è per l'Evangelo, per il cosiddetto Evangelo dell'inclusione, per cui tutti alla fine saranno salvati, ma l'Evangelo dell'inclusione è un altro Evangelo, un altro Evangelo. Quindi, come vi stavo dicendo, non si sente predicare l'Evangelo. L'Evangelo è il grande assente dai pulpiti. Ma io ormai sono molti anni che, diciamo, per le mie ricerche, diciamo, navigo sul web, ma vi posso assicurare che quasi nessuno predica l'Evangelo. È cosa rara trovare qualcuno che predica l'Evangelo. Come mai? Evidentemente i soliti noti che hanno appunto, che sono diciamo a capo del sistema diciamo denominazionale, chiamiamolo così, non gradiscono l'Evangelo, ma infatti poi sono a favore del dialogo interreligioso, no? Sono a favore dell'ecumenismo con i mariani e insomma per questa ragione l'Evangelo deve essere messo da parte per non turbare gli animi di coloro che non credono nell'Evangelo, capite? Perché la massoneria vuole riunire tutte le persone, no? non importa a quale credo aderiscono, quindi la massoneria vuole mettere assieme cristiani con musulmani, buddisti, shintoisti, induisti, ebrei, insomma vuole fare tutto un miscuglio, vuole creare una religione unica mondiale, ovviamente che per creare questa religione unica mondiale deve essere estromesso l'Evangelo, infatti l'Evangelo è stato estromesso da molte denominazioni. Chi comincia a predicare l'Evangelo in queste denominazioni, vi posso assicurare, naturalmente accompagnato con questa predicazione, accompagnata dalle ammonizioni che diciamo devono seguire la predicazione del Vangelo, come appunto questa: chi non avrà creduto sarà condannato, vi posso assicurare che sarà cacciato via. Sarà cacciato via, non sopportano le denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, che si dica che chi non avrà creduto sarà condannato. Ma considerate che ormai non viene più detto neppure che gli omosessuali vanno all'inferno, ormai non viene più detto che i fornicatori vanno all'inferno, che gli adulti vanno all'inferno, gli idolatri vanno all'inferno, gli effeminati, i bugiardi, gli stregoni, gli omicidi, gli ingiusti, i rapaci, gli oltraggiatori, i bestemmiatori, gli avari, gli ubriaconi. Non viene detto neppure che questi vanno all'inferno. Figuriamoci, i codardi, pure loro. Figuriamoci se viene detto che gli increduli vanno all'inferno, ma no, perché altrimenti non vogliono sentirsi dire che in cielo ci andate solo voi, quattro gatti, voi che siete quattro gatti, che siete spuntati l'altro giorno, ma chi vi credete di essere? Ma pensate di essere solo voi salvati? Perché? Perché per costoro salvati sono tutti quanti. Alla fine il Signore, che è buono, misericordioso, salverà tutti nel suo regno, tanto in cielo ce n'è posto, non è che manca posto, manca spazio, per cui alla fine mandano tutti in cielo, quando invece la maggior parte degli uomini va all'inferno quando muore. Perché? Perché sono increduli, non credono nell'Evangelo, però non si deve dire questo, non si deve dire, ma soprattutto non deve essere predicato l'Evangelo, perché l'Evangelo crea turbamento, l'Evangelo crea, diciamo, una netta separazione tra i credenti e i non credenti, separazione che appunto deve essere eliminata, perché la massoneria è questo che vuole eliminare, vuole eliminare questa differenza tra credenti e increduli, ma la differenza c'è, perché Gesù rimarrà, perché Gesù ha detto chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Gesù non ha detto chi non avrà creduto sarà salvato lo stesso. Non l'ha detto questo. Ha parlato di condanna, io credo fermamente, alle parole del nostro Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Sono parole di Dio, quindi sono parole fedeli e veraci. Infatti, ancora oggi, gli increduli che sono morti, dove sono andati? In paradiso, secondo voi? Secondo tanti pastori, sì. No, gli increduli sono andati all'inferno. Ancora oggi, tanti increduli sono scesi all'inferno, perché appunto sono morti senza Cristo, sono morti nei loro peccati. E quindi in questo momento, mentre io predico l'Evangelo a voi, essi sono nelle fiamme dell'inferno. Dove sono? Tormentati. E dunque, allora questo è l'Evangelo nel quale, credendo, l'uomo viene salvato. Salvato da che cosa? Dai suoi peccati, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato, ha bisogno di essere affrancato dal peccato, e la via per essere affrancati dal peccato è appunto la via della fede. Quindi è mediante la fede nell'Evangelo, in questa parola, che appunto l'uomo viene affrancato dal peccato, smette di servire quindi il peccato, perché il peccato, nel momento in cui lui crede nell'Evangelo, non lo signoreggia più, cioè praticamente lascia la presa, perde la sua presa sull'uomo che crede, perché l'uomo appunto, credendo nell'Evangelo, viene affrancato dalla signoria del peccato, e quindi il peccato non lo signoreggia più. Per quello diciamo appunto che noi siamo salvati. Salvati da cosa? Dal peccato. E naturalmente, siccome che il salario del peccato è la morte, l'uomo che è signoreggiato dal peccato, che serve il peccato, è morto nei suoi falli, nei suoi peccati. Nel momento invece in cui lui crede nell'Evangelo, viene vivificato. Sì, viene vivificato perché viene affrancato dal peccato. Capite? Viene vivificato, ottiene la vita spiritualmente, senza, diciamo, quando era sotto il peccato era morto, quando viene affrancato dal peccato è vivo. Vivo, siamo vivi appunto in Cristo per la grazia di Dio, fratelli del Signore. Ora, credendo nell'Evangelo, l'uomo viene anche giustificato, quindi reso giusto. Perché? Perché ottiene la giustizia di Dio che viene dalla fede. Il Dio a colui che crede nell'Evangelo gli imputa la giustizia senza opere, in quanto la sua fede gli viene messa in conto di giustizia. Egli dunque viene sottoposto alla giustizia di Dio. Perché? Perché Cristo è il termine della legge per essere giustizia ad ognuno che crede. Quindi nel momento in cui l'uomo crede, egli diventa giustizia di Dio in Cristo. Capite? Quale opera meravigliosa, la giustificazione che opera il Signore in coloro che appunto credono nell'Evangelo. Naturalmente, essendo che vengono giustificati, essi vengono riconciliati con Dio. L'uomo viene riconciliato con Dio per mezzo di Cristo, per mezzo appunto della fede nell'Evangelo. Riconciliato perché? Perché l'uomo senza Dio, l'uomo senza Cristo, l'uomo che è signoreggiato dal peccato, è un nemico di Dio nella sua mente e nelle sue opere malvagie. E allora ha bisogno di fare pace con Dio. E questa pace con Dio, appunto, egli la fa solamente quando crede nell'Evangelo. Nell'Evangelo, infatti è l'Evangelo della pace, non è solo l'Evangelo della nostra salvazione, ma anche l'Evangelo della pace. Vedete, vedete fratelli nel Signore, quanti effetti, diciamo, benefici, meravigliosi che ha il credere nell'Evangelo, appunto, in colui che crede. E poi, naturalmente, colui che crede nell'Evangelo riceve la vita eterna. Proprio nel momento in cui crede, ottiene la vita eterna. Per cui egli può dire, nel preciso momento in cui crede, ho la vita eterna. Perché Gesù ha detto, chi crede ha vita eterna. L'ha detto Gesù. L'ha detto Gesù, il Figlio di Dio, disceso dal cielo per essere il Salvatore del mondo. Lui, la vita eterna che era presso il Padre, che ci fu manifestata, ha detto, chi crede ha vita eterna. Voglio enfatizzare questo, perché sono sorti uomini malvagi in mezzo alla Chiesa di Dio, che appunto negano ciò, perché per costoro la vita eterna non è il dono di Dio in Cristo Gesù, ma è una paga che Dio dà a coloro che fanno molte preghiere, molti digiuni e molte elemosine. Hanno trasformato il dono di Dio, il dono ineffabile, l'hanno trasformato, l'hanno mutato in una paga. Vedete la malvagità di questi uomini. Per quello la scrittura li chiama scellerati, questi non sono dei nostri, I figlioli di Dio sanno di avere la vita eterna, perché credono nel nome del figliolo di Dio, perché hanno il figliolo di Dio, perché la vita eterna è nel figliolo, fratelli, chi ha il figliolo ha la vita, chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita, capite? Allora capite la gravità del peccato di coloro che hanno trasformato il dono di Dio in paga, vergogna, che orrore, inorridiamo nel sentire veramente uomini, donne che si dicono cristiani, hanno la sfacciataggine di presentarsi come cristiani, e che appunto annullano la grazia di Dio, dicendo appunto che la vita eterna ce la si guadagna, ce la si deve meritare, e come? Pregando, e certo, digiunando, facendo elemosine, e quindi non è più il dono di Dio, ma è una paga che Dio dà a quelli che fanno tante preghiere, tanti digiuni e tante elemosine, sì, proprio così. Sì, però è una paga che loro si guadagnano fetta per fetta, ogni volta che si inginocchiano e pregano, fanno le loro preghiere, le loro litanie contro Dio, quando pregano sembra che stiano, no, sembra, stanno dando degli ordini a Dio, gli stanno prescrivendo la via da seguire, gli dicono quello che deve fare Dio, pensate un po', no, loro non prendono ordine da Dio, loro hanno le orecchie turate, infatti, loro danno ordini a Dio, devi fare così, devi prescrivere questa via, a me non mi sta bene quello che tu pensi, a me non mi sta bene quello che tu fai, capite? Questi qui lottano contro Dio, naturalmente, e si vogliono impossessare della vita eterna, strappandogliela dalle mani al Signore, fetta per fetta però, piano piano, un po' alla volta, un pezzo oggi, un pezzo domani, ecco che quindi appunto si accumulano un po' di vita eterna. Questi scellerati che non conoscono il Dio, che si presentano come cristiani, ma che sono degli anticristi, perché questi non credono che Gesù è il Cristo, perché tutti coloro che credono che Gesù è il Cristo sono nati da Dio, ed essendo nati da Dio sono figlioli di Dio, ed essendo figlioli di Dio sono eredi di Dio, e quei eredi di Cristo hanno la vita eterna, perché hanno il figliolo di Dio, e quindi coloro che appunto si presentano a voi e vi dicono: sapete, ogni volta che noi ci mettiamo in ginocchio in preghiera, ci appropriamo di un pezzo di vita eterna, costoro non li dovete far entrare né nei vostri locali di culto né nelle vostre case. Non dovete averci niente a che fare, ammoniteli una volta, due volte, poi lasciateli andare in perdizione, che è il loro luogo dove sono diretti. Sono uomini malvagi, ve lo ripeterò fino a che avrò un alito di vita, perché li ho conosciuti, se no non ve lo direi. Sono malvagi, hanno un cuore malvagio, sono persone che fanno Dio bugiardo. Ma ditemi voi, ma uno che fa Dio bugiardo, ma voi lo volete avere per amico? Beh, se volete avere per amico uno che fa Dio bugiardo, tenetevelo, tenetevelo. Ma come si fa? Ma come si fa a camminare con gente che fa Dio bugiardo? Perché non credono nelle parole di Dio, infatti questi odiano Dio. E quindi state molto attenti. Allora, credendo nell'Evangelo, l'uomo ottiene la vita eterna e può dire in qualsiasi momento: ho la vita eterna. E quindi ringraziato sia Dio del suo dono ineffabile. Ditemi una cosa, ma se la vita eterna fosse la paga, una paga, ma come faceva Paolo a ringraziare Dio per il suo dono ineffabile? Come faceva? Come faceva? Non avrebbe potuto, E quindi ringraziamo Dio, fratelli e sorelle del Signore, che Dio ci ha dato la vita eterna, E questa vita è nel suo figliolo Gesù Cristo. Quindi questo è l'Evangelo della gloria del beato Dio, per il quale il Signore veramente nella sua grande misericordia mi ha appartato sin da quando ero un fanciullo, un ragazzino, e che il Signore mi ha mandato a predicare, che tuttora predico, anche se ci sono gli scellerati che non vorrebbero che io predicassi l'Evangelo, gli dà fastidio. Questi sono allergici all'Evangelo, perché sono, diciamo, contro la grazia di Dio. Siccome io predico l'Evangelo della grazia e questi sono contro la grazia, allora chiaramente mi detestano, mi odiano, mi vorrebbero morto. Cosa stai dicendo? Sì, sì, è così. Questi sono pieni di omicidio, questi qui odiano, voi sapete che chi odia il suo fratello è un omicida, lo sapete questo? Ecco, questi qua sono degli omicidi, e guardate che chi li ha conosciuti, conferma quello che io dico, non vi sto dicendo una cosa per un'altra, Sapete, quando io molti anni fa cominciai a, smascherare la massoneria, c'erano quelli che mi dicevano, deridendomi: ah, Butindaro, ma tu vedi la massoneria da tutte le parti, tu vedi i massoni da tutte le parti. Adesso trovatemi uno che mi accusa pubblicamente di vedere massoni dove non ci sono massoni. Ormai, persino i media oramai parlano della presenza di massoni dappertutto. I media! Una volta una cosa del genere era impensabile, I media, ormai i siti internet che diciamo praticamente dove si parla della presenza di massoni in ogni ambito della società, delle loro opere che compiono e così via, ma ormai non si contano più, per così dire. All'inizio però quando io parlavo della forte presenza di massoni tra i pentecostali in particolare, tutti mi aggredivano e adesso è perché hanno potuto riscontrare che le cose stanno così. E infatti vedete che le denominazioni pentecostali stanno andando di mano in peggio. Perché? Perché qua quanti gli sento dire: non si capisce più niente. Certo che non si capisce più niente, perché la massoneria ha in mano queste denominazioni. Allora all'inizio si deridevano di me, dicevano: no, ma tu esageri. Adesso non sono più quello che esagera. Allora perché? Ma perché vi ho sempre detto la verità. E riguardo a quelli che sono usciti di fra noi, quando vi dico che costoro sono dei finti credenti, sono dei finti fratelli, vi dico la verità. perché oramai sono stati smascherati, abbiamo compreso, perché quando erano in mezzo a noi non legavano con noi, abbiamo compreso perché con loro non c'era una comunione efficace, abbiamo compreso tante cose, certo, negano la grazia di Dio. Negano che la vita eterna sia il dono di Dio, capite? Con questa negazione negano tutto e quindi non sono dei nostri, sono usciti di fra noi ma non erano dei nostri. Alcuni magari all'inizio sono rimasti un po' perplessi, ma col tempo si sono persuasi, perché Dio li ha persuasi, perché Dio gli ha fatto forza e li ha vinti, perché è così, sul momento talvolta non si capisce. Non si capisce quello che ti dice il ministro dell'Evangelo, talvolta sembra esagerato, poi però quando il Signore opera ti fa vedere delle cose, ti fa sentire delle cose per cui tu rientri in te stesso all'improvviso, ti cadono delle scaglie dagli occhi e dici: ma allora era come mi era stato detto, certo, è proprio così, e vada bene che questi sono tra i più astuti, furbi che io abbia mai conosciuto, sono abili, dissimulano il loro odio verso di te, fingono di credere, dicono di credere, ma è tutta una finzione, quando poi li metti alla prova tu lo vedi che non hanno la fede, non hanno la fede degli eletti di Dio, ed è manifesto questo, vivono in paranoie di ogni genere, nella paura, nel terrore, nell'insicurezza, nei dubbi, hanno di tutto, il loro corpo è un involucro veramente, dove veramente si addensa ogni sorta di malvagità, sono come delle persone putrefatte dentro, che quando aprono la bocca, da quella bocca esce un odore di morte, che solo coloro che veramente sono sulla via della giustizia possono sentire e discernere. Quindi vi scongiuro a voi veramente, che siete veramente in Cristo, allontanatevi da costoro, non abbiate niente a che fare, perché questi vi fanno piombare nella disperazione, nella depressione, prima appunto di farvi piombare nelle fiamme dell'inferno, perché la loro dottrina è satanica e vi porta veramente all'inferno. Quindi, ritornando appunto all'efficacia dell'Evangelo, vi ho detto appunto che cosa avviene in colui che crede nell'Evangelo. Perché avviene tutto ciò? Perché l'Evangelo, come dice Paolo, è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Quindi, cosa dice Paolo? È potenza di Dio. Allora, se è potenza di Dio, vuol dire che è sempre potenza di Dio. Non c'è un momento in cui l'Evangelo non sia potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Qualcuno dirà, ma allora anche quando viene predicato da persone che sono invidiose e contenziose, l'Evangelo rimane potenza di Dio per la salvezza di ogni credente? Sì, esattamente. Noi lo sappiamo. Le contese, le invidie sono opere della carne, che coloro appunto che vi camminano, perché voi lo sapete cosa dice la Sacra Scrittura, eh? La Sacra Scrittura dice questo, le contese, le invidie sono che cosa? Sono opere della carne e sono manifeste, sì, perché gli invidiosi e contenziosi si vedono, Cioè, non è che hai bisogno del microscopio, del binocolo, no, proprio si vedono, le persone invidiose e contenziose, ma come? Si vedono, si riconoscono subito, allora, quelli che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio, Gli invidiosi e contenziosi non erediteranno il regno di Dio. Ebbene, qualcuno allora dirà, ma allora anche quando l'Evangelo viene predicato da invidiosi e contenziosi, rimane potenza di Dio per la salvezza di ogni credente? Sì, esattamente così. Difatti l'Apostolo Paolo, parlando ai santi di Filippi, guardate che cosa gli dice, ascoltate. Lui era in prigione a motivo di Cristo, a motivo dell'Evangelo, e dice così, capitolo 1, dal versetto 12, o fratelli, io voglio che sappiate che le cose mie sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo, tanto che a tutta la guardia pretoriana e a tutti gli altri è divenuto notorio che io sono in catene per Cristo. La maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dai miei legami, hanno preso vie maggiore ardire nell'annunziare senza paura la parola di Dio. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per contenzione, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo, questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa dell'Evangelo. Ma quelli annunciano Cristo con spirito di parte, non sinceramente, credendo cagionarmi afflizione nelle mie catene. Che importa, comunque sia, o per pretesto, o in sincerità, Cristo è annunziato. Allora, notate questo. Mentre Paolo era in prigione, c'erano alcuni che si erano messi a predicare l'Evangelo non sinceramente. Non sinceramente. Perché? Perché se predicavano Cristo per invidia e contenzione. Erano persone veramente invidiose, erano invidiose dell'Apostolo Paolo, erano persone a cui piaceva litigare. Avete presente persone litigiose? Sapete quante ce ne sono? Persone che amano litigare, attaccabrighe li chiamano, no? Vogliono sempre litigare, accendere liti, anche tra fratelli. Allora dice così, cosa dice l'Apostolo Paolo? Che costoro annunziavano Cristo con spirito di parte, non sinceramente, credendo di cagionargli afflizione nelle sue catene. Pensate quanto fossero malvagi. Cioè, riflettete solo a questo. Questi annunziavano Cristo, quindi annunziavano l'Evangelo, però per quale ragione? Perché pensavano di cagionargli afflizione nelle sue catene. Cioè, allora, Paolo già era afflitto perché si trovava, diciamo, in catene, perché veramente avevano le catene a quel tempo i prigionieri. Allora, no, perché ci sono certe carceri che sembrano degli hotel oggi, voi lo sapete, no? In certe nazioni. No. Allora, il carcere dove si trovava l'Apostolo Paolo è un carcere dove si stava con le catene. Allora, Paolo era afflitto, naturalmente, e c'erano quelli che predicavano l'Evangelo pensando che gli avrebbero cagionato afflizione, come dire, ah, così adesso, diciamo, lo facciamo soffrire, lo facciamo soffrire, gli aumentiamo le sofferenze, con la nostra, diciamo, predicazione. Ma Paolo cosa ha detto? Che importa, comunque sia, per pretesto e sincerità, che si annuncia. Quindi Paolo praticamente si rallegrò anche nel venire a sapere che l'Evangelo veniva annunziato per pretesto, perché questi qua lo annunziavano, diciamo, per pretesto, non sinceramente, e infatti erano invidiosi e contenziosi. Allora, che cosa significa questo? Significa che, secondo l'Apostolo Paolo, l'Evangelo continuava ad essere potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima o poi del greco, anche se veniva predicato da persone invidiose e contenziose, che quindi camminavano secondo i desideri della carne, che sono desideri opposti a, appunto, ai desideri dello spirito. Capite? Allora, voi sapete che, come dice Giacomo, il fratello del Signore, dice così, dove sono invidia e contenzione, qui vi è disordine ed ogni malazione. Allora, noi sappiamo per certo che nella vita di costoro che predicavano l'Evangelo per invidia e contenzione c'era praticamente disordine ed ogni malazione. Ricordatevi queste parole, disordine ed ogni malazione. Infatti noi abbiamo visto proprio questo, negli invidiosi e nei contenziosi abbiamo visto disordine nella vita di costoro ed ogni mala azione. Fratelli, è proprio così, come dice la parola del Signore. Allora, Paolo questo lo sapeva, che dove c'erano invidia e contenzione c'erano disordine ed ogni mala azione, però si rallegrò lo stesso nel sapere che l'Evangelo veniva annunziato, perché l'Evangelo rimane l'Evangelo, anche se praticamente viene annunciato da persone nella cui vita c'è disordine ed ogni mala azione. Perché si rallegrava? Perché sapeva appunto che l'Evangelo rimaneva pur sempre potenza di Dio per la salvezza di ogni credente e che quindi coloro che erano ordinati a vita eterna, potevano credere anche ascoltando l'Evangelo dalla bocca di gente così fatta, cioè di gente invidiosa e contenziosa. Ma sapete quanti si sono convertiti? Questo molti non lo sanno, ma sapete quanti hanno creduto nell'Evangelo dopo aver sentito l'Evangelo predicato a persone che si presentavano dietro i pulpiti come servi di Dio, ma erano ubriaconi, ladri, bugiardi, omosessuali, fornicatori, insomma, ma sapete? Ma io non mi meraviglio mica, massoni. Qualcuno dirà come? Ma veramente? Sì, sì. Dov'è il problema? L'Evangelo, anche in bocca a un massone, rimane l'Evangelo. Non è che cambia. L'Evangelo è sempre quello. È la parola dell'Evangelo. Vi faccio un esempio. Un po' di tempo fa, il capo della Chiesa Cattolica Romana fece una catechesi. In cui spiegò cos'era l'Evangelo. Ora, tranne qualche cosina, però nell'insieme la catechesi era corretta. Stiamo parlando del capo della Chiesa Cattolica Romana, che noi sappiamo essere, che cosa? Un idolatra, perché rende il culto a Maria, una creatura, anziché al creatore che è benedetto in eterno. Sappiamo bene, il capo della Chiesa Cattolica Romana, lo sappiamo bene che non è un discepolo di Gesù Cristo, anche perché dice di essere il vicario di Cristo, il capo della Chiesa Universale, insomma, delle cose false. Allora, quella catechesi era, sostanzialmente corretta, perché lui disse cos'era l'Evangelo, citando le parole della Scrittura. E io infatti pubblicai quella sua catechesi proprio per dimostrare che nella Chiesa Cattolica Romana c'è anche chi sa cos'è l'Evangelo, però non ci crede. Allora qualcuno dirà, ma può essere mai addirittura che uno poteva credere nell'Evangelo che ha annunciato Bergoglio essere salvato? Sì, dove sta? Non è che chi crede in Bergoglio, crede nell'Evangelo. Lo so, tu dirai, ma quello è un idolatra, ma quello dice tante false dottrine. Lo so, a me lo dici. Io lo confuto da molti anni al capo della Chiesa Cattolica Romana, pubblicamente. Lo so bene che insegna tante false dottrine, però l'Evangelo rimane l'Evangelo, anche quando viene annunziato da un idolatra, da un mariano, capite? Da un mariano! Capo della Chiesa Cattolica Romana, è risaputo che è un mariano. Allora, l'Evangelo rimane potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, anche se viene annunziato da un mariano che naturalmente non crede nell'Evangelo. Perché sapete, ci sono quelli che predicano l'Evangelo, o meglio, sanno cos'è l'Evangelo, magari lo spiegano pure, lo predicano, ma non ci credono, com'è possibile? Sapete, le situazioni sono veramente tante e complesse, ma le cose stanno così e Dio fa accadere tutte queste cose per mostrare come stanno realmente le cose. E allora, di che cosa ci si deve meravigliare? Io non mi meraviglio di niente, perché so che cos'è l'Evangelo. Allora, poi naturalmente i scellerati dicono anche che se l'Evangelo non è accompagnato da segni, prodigi, opere potenti, è come una sorta di chiacchiera, una ciancia. È così? No, anche qui l'Evangelo rimane potenza di Dio per la salvezza di ogni credente anche quando non ci anche in assenza di miracoli e guarigioni. Perché? Perché appunto è l'Evangelo. Allora, a dimostrazione di questo, vi voglio citare quello che venne a Filippi. Ascoltate, Filippi, città della Macedonia. Macedonia, appunto, dove il Signore aveva chiamato Paolo e i suoi compagni a predicare l'Evangelo mediante una visione che Paolo aveva avuto di notte a Troas. Allora, ascoltate che cosa c'è scritto. Perciò, salpando da Troas, capitolo 16, versetto 11 degli Atti. Perciò, salpando da Troas, tirammo dritto verso Samotracia, il giorno seguente verso Neapoli. Di là ci recammo a Filippi, che è città primaria di quella parte della Macedonia. Ed è colonia romana, e dimorammo in quella città alcuni giorni. Nel giorno di sabato andammo fuori della porta, presso al fiume, dove supponevamo fosse un luogo d'orazione. E postoci a sedere, parlavamo alle donne che erano qui vi radunate. Una certa donna, di nome Livia, negoziante di porpora della città di Tiatiri, che temeva i Dio, ci stava ad ascoltare. E il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. E dopo che fu battezzata con quei di casa, ci pregò dicendo: se mi avete giudicato fedele al Signore, entrate in casa mia e dimoratevi, e ci fece forza. Ora, qui non viene detto che l'Apostolo Paolo impose le mani agli infermi, a degli infermi, e li guarì, e che Lidia si convertì vedendo quelle guarigioni compiute nel nome di Gesù. No, assolutamente. Paolo si mise a parlare, e che cosa si mise a dire? Si mise ad annunziare l'Evangelo. E cosa avvenne? Che il Signore aprì il cuore a questa donna per renderla attenta alle cose dette a Paolo. Quindi questa donna credette e poi fu battezzata. Vedete, anche in assenza di miracoli e guarigioni, l'Evangelo rimane l'Evangelo, cioè potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. E badate bene che Paolo aveva il dono di potenza ad operare miracoli e i doni di guarigioni. Ma vedete, il dono di potenza ad operare miracoli e i doni di guarigioni, appunto perché sono doni dello Spirito Santo e sono quindi la manifestazione dello Spirito Santo, operano in accordo con la volontà di Dio, quando Dio vuole. Quando Dio vuole. Non è che praticamente l'uomo diciamo fa accadere le cose in accordo con la propria volontà. No. Le cose accadono sempre in accordo con la volontà di Dio, perché la volontà di Dio rimane sempre sovrana. Perché uno può avere anche il dono di potenza ad operare miracoli e i doni di guarigione, ma se il Signore ha deciso di non guarire uno zoppo tramite lui, non lo guarisce. È così. Se il Signore ha deciso di non risuscitare un morto tramite quel fratello che ha ricevuto dono di potenza ad operare miracoli, doni di guarigione, dono della fede, quel morto non risusciterà, perché il miracolo e la guarigione, affinché, diciamo, si adempia, ha bisogno sempre di essere, diciamo, in accordo con la volontà di Dio. Allora, in questa circostanza, il Signore non è che operò miracoli e guarigioni in nome di, diciamo, tramite, per le mani di Paolo. Però vedete, questa donna credette nell'Evangelo. In altre circostanze, per esempio, ci furono coloro che credettero nell'Evangelo dopo aver visto dei miracoli, delle guarigioni compiute nel nome di Gesù. Ma non sempre questo avviene. Allora, perché vi ho detto questo? Vi potrei citare anche l'esempio dell'eunuco. Vi ricordate Filippo l'evangelista? Filippo aveva dei doni spirituali, compiva dei miracoli, come dice la Sacra Scrittura, vedendo i miracoli e le gran potenti opere che erano fatte, stupiva. Quindi che cosa significa? Che Filippo aveva dei doni dello Spirito Santo. E quando questi doni si manifestavano, c'erano miracoli, opere potenti. Però vi voglio fare notare che a Samaria, appunto, la scrittura dice che credettero a Filippo, che annunciava loro la buona novella relativa al regno di Dio, al nome di Gesù Cristo. E poi ci furono, appunto, i credenti furono battezzati, no? uomini e donne. E lui, appunto, Filippo, a Samaria predicò l'Evangelo, che fu accompagnato, appunto, da miracoli e grandi opere potenti, a Samaria. Però quando poi il Signore lo mandò su quella strada, su quella via deserta che appunto scendeva da Gerusalemme a Gaza, per, diciamo, annunziare Gesù a quell'uomo, a quell'eunuco, ministro di Candace, regina degli Etiopi. Beh, là che cosa vediamo? Che cosa vediamo? Vediamo un'evangelizzazione che appunto non fu accompagnata da opere potenti, da miracoli, ma quell'uomo credette in Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Credette dunque nell'Evangelo, nella buona novella che gli annunziò l'evangelista Filippo. Quindi, che cosa significa? Questa è la prova che l'Evangelo rimane potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, anche in assenza di miracoli e di grandi opere potenti. Naturalmente, il dono di potenza ad operare miracoli, il dono di guarigione, il dono della fede, sono doni che vanno desiderati ardentemente. Però quello che la Chiesa deve sapere è che anche in assenza della manifestazione dello Spirito Santo tramite miracoli e guarigioni o segni particolari, ebbene l'Evangelo annunziato rimane potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Per cui coloro che sono ordinati a vita eterna, credendo nell'Evangelo, vengono salvati. Capite? Perché, vedete, Dio ha stabilito di salvare coloro che sono ordinati a vita eterna. Essi crederanno per essere salvati, in quanto sono stati eletti in Cristo prima della fondazione del mondo. Ora, sarà Dio a decidere come salvarli. Cioè, se salvarli facendogli vedere miracoli, guarigioni o diciamo anche qualche altra cosa compiuta nel nome di Gesù, o altrimenti semplicemente tramite l'annunzio dell'Evangelo. Questa è una cosa che decide Dio. Io vi posso assicurare però che anche, da un lato ci sono coloro che diciamo hanno creduto nell'Evangelo dopo aver visto miracoli, opere potenti compiute nel nome di Gesù, sì, però dall'altro ce ne sono anche tanti altri che hanno creduto nello stesso Evangelo, però in assenza di miracoli e guarigioni, cioè senza aver visto miracoli e guarigioni. Vi faccio un altro esempio. Voi sapete che Saulo da Tarso fu salvato dal Signore mentre andava a Damasco e che il Signore usò una celeste visione per salvarlo. Perché? Perché gli apparve Gesù. Gesù. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Vi ricordate? Peraltro queste parole Gesù gliele rivolse in ebraico a Saulo da Tarso. Allora, il Signore volle salvare Saulo da Tarso mediante una visione. Infatti lui credette che Gesù era il Messia proprio in seguito a questa visione, in seguito a quello che Gesù gli disse in questa visione. Ma vi risulta che tutti coloro che, diciamo, vi risulta che tutti gli ebrei che hanno creduto fino adesso, che fanno parte del residuo eletto secondo la grazia, vi risulta che tutti abbiano creduto, diciamo, dopo aver visto Gesù in visione o in un sogno che gli ha parlato? No, alcuni sicuramente sì, ma non tutti. Quindi il modo in cui Dio decide di salvare le persone, diciamo, può essere diverso, ma una cosa è certa, che tutti saranno salvati credendo nell'Evangelo. Tutti. Poi potranno vedere miracoli, opere potenti, o potranno anche vedere una visione, ma potranno anche non vedere una visione, potranno anche non vedere un miracolo, potranno anche non vedere una guarigione. Ma essendo ordinati a vita eterna, crederanno nell'Evangelo. E credendo nell'Evangelo saranno salvati. Quindi da un lato, vedete, c'è questo desiderio che deve essere presente sempre in noi, di vedere naturalmente la predicazione dell'Evangelo accompagnata da segni, prodigi e opere potenti, come era, diciamo, ai giorni degli Apostoli. Però dall'altro anche dobbiamo riconoscere che l'Evangelo non perde efficacia nel momento in cui non ci sono miracoli e guarigioni compiute nel nome di Gesù. Ma quanti hanno creduto nell'Evangelo? Ma quanti? Senza avere visto miracoli e guarigioni compiuti nel nome di Gesù? Quanti? Tanti, tanti. Quindi, addirittura, questa voglio aggiungerla, ci sono quelli, veramente, io quando penso alla sovranità di Dio, veramente, mi inchino davanti a Dio e lo glorifico. Pensate che ci sono coloro che hanno creduto nell'Evangelo dopo aver sentito una testimonianza di una falsa guarigione. Mi ricorderò sempre una sorella che mi raccontava, era una sorella calabrese, che mi raccontava molti, molti, molti anni fa, una sorella che comunque già aveva i suoi anni, al nord Italia, io ero convertito da non molto tempo, da pochi anni, e comunque lei ci raccontò che aveva sentito alla televisione una sorella raccontare come il Signore l'aveva guarita da un brutto male. E siccome che in sovraimpressione era venuto fuori il telefono, comunque sia, o l'indirizzo, non mi ricordo bene, del luogo dove appunto invitavano ad andare, ad ascoltare la parola di Dio, ebbene questa donna disse: voglio andarci. Voglio andarci, lei ci andò proprio perché era rimasta colpita da questa testimonianza di una guarigione portentosa. Questa donna così testimoniava che il Signore l'aveva guarita. Ebbene, ci raccontò, lei andò a questo luogo di culto e si ravvide e credette nell'Evangelo. Quindi fu attirata a Cristo tramite appunto la testimonianza di una guarigione. Il fatto è che quella guarigione non era mai avvenuta, perché quella donna, che era una credente, morì poco tempo dopo di quel male. Ma lei aveva testimoniato in televisione che il Signore l'aveva guarita da quel male. Allora, capite voi, la sovranità di Dio è una cosa seria, è una cosa serissima. Il Dio fa quello che vuole. E queste cose le fa accadere per mostrarci chi è Lui. Voi direte: ma com'è possibile? Com'è possibile che Dio abbia usato la testimonianza, falsa di una donna, per attirare l'anima a Cristo? Perché quell'anima, quella donna, era ordinata a vita eterna e Dio aveva deciso, di attirarla in quel locale di culto in questa maniera. Considerate un po' voi. È chiaro che il Signore non ha bisogno di false testimonianze, affinché il suo nome sia esaltato. Però sapete, ci sono oggi molti che testimoniano di essere guariti quando in effetti non sono stati mai guariti. D'altronde, in tanti locali di culto, i predicatori cominciano a dire ai malati: alzate le mani, cominciate a dire: il Signore mi ha guarito, sono guarito, e così via, e così via. Poi chiaramente questi qua cominciano a testimoniare che sono stati guariti, poi dopo li incontri fuori dal locale di culto, dopo qualche giorno, e li trovi ancora malati di quel male. E funzionano così le cose in tanti ambienti, pentecostali carismatici, per cui io non mi meraviglio che appunto di sentire poi una sorella raccontare una simile testimonianza. Sono cose che ti rimangono naturalmente impresse, ma sono cose che io racconto affinché tutti comprendano veramente che l'Iddio che serviamo è un Dio che fa tutto ciò che gli piace, le sue vie sono più alte delle nostre, vie e i suoi pensieri sono più alti dei nostri pensieri, come il cielo. I cieli sono alti al di sopra della terra. Quindi non ci scandalizziamo, non ci meravigliamo noi nel sentire dire anche queste cose. Quindi quello che vi ho voluto dimostrare con questa mia predicazione, fratelli, che l'Evangelo è sempre potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Quello sempre l'ho messo nel titolo della predicazione per farvi appunto riflettere, per farvi riflettere, perché appunto ci sono quelli che ingannando le anime fanno credere che l'Evangelo non è sempre potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Lo stabiliscono loro quando è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, perché sono persone arroganti che non capiscono, come vi ho detto prima, non capiscono proprio nulla, essendo che le tenebre gli hanno accecato gli occhi. Quindi ritenete questa mia, diciamo, confutazione al fine appunto poi di turare la bocca a coloro che vi vengono a propinare simili idee, simili cose perverse, simili cose perverse. E peraltro ci sono quelli che arrivano a dire: ah, se uno predica l'Evangelo e non ci sono miracoli e guarigioni, no, quello non è un predicatore dell'Evangelo, quello non è un ministro dell'Evangelo. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto questo? Ma chi l'ha detto? Come se tutti i ministri dell'Evangelo dovessero avere il dono di potenza ad operare miracoli e i doni di guarigione. Ma io veramente, cioè, devo anche spiegare questo. Ma vi rendete conto? Guardate cosa dice Paolo: Dio ha costituito nella Chiesa primariamente degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi i miracoli, poi i doni di guarigione, le assistenze, i doni di governo, la diversità delle lingue. Tutti sono egli apostoli? Sono forse tutti profeti? Sono forse tutti dottori? Fanno tutti dei miracoli, tutti hanno egli i doni delle guarigioni, parlano tutti in altre lingue, interpretano tutti? Fa queste domande Paolo. Ancora bisogna spiegare che non tutti hanno i doni di guarigione. Pensate un po' voi, eh? Pensate un po' voi, ancora bisogna spiegare, c'è bisogno di spiegare che non tutti nella Chiesa fanno miracoli. D'altronde, non tutti hanno il dono di potenza d'opera miracoli, i doni di guarigione. Quindi, cioè, alcuni arrivano a dire anche queste cose, e in questa maniera naturalmente calunniano quei ministri dell'Evangelo che, non avendo il dono di potenza d'opera miracoli, non avendo i doni di guarigione, appunto non hanno questi segni, come se tutti i ministri dell'Evangelo dovrebbero essere come l'Apostolo Paolo in questo. Ma l'Apostolo Paolo era apostolo. E i segni dell'Apostolo sappiamo quali sono. Quindi non è che possiamo cominciare a dire, a diffondere l'idea: ah, se nelle tue riunioni non ci sono miracoli e le guarigioni che avvenivano nelle riunioni dell'Apostolo Paolo, tu non sei un ministro dell'Evangelo. Ma come si fa a dire una cosa del genere? Ma come si fa? Vi rendete conto, fratelli nel Signore? Vi rendete conto? Ecco, diciamo che molti oramai, nella loro cecità, nella loro ignoranza, nella loro stoltezza, arrivano a dire queste cose. Arrivano a dire queste cose, sì. Ecco perché vi metto in guardia io del continuo, appunto, dalle false dottrine, vi metto in guardia dai vani ragionamenti, dalle cose perverse che, appunto, vengono insegnate in mezzo alla Chiesa. E naturalmente vi metto in guardia da queste cose, dimostrandovi per le scritture che costoro errano grandemente, d'altronde non conoscono le scritture costoro. Quindi state attaccati alla parola del Signore, nessuno vi seduca con vani ragionamenti. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.